martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa. Abbiamo in corrispondenza Michela da Milano. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, ci senti bene? Sì, sì, vi sento benissimo. E vorremmo parlare, insomma, con te del fatto che a Milano da gennaio, se non sbagliamo, esiste una casa delle donne che invece appunto non c'era, e c'è stato un progetto, un percorso che ha portato all'apertura di questo spazio, che è attivo, insomma, da quest'anno, dal 2014, diciamo bene? Esatto, sì, la casa è stata consegnata, è stato vinto il bando, è consegnata inizio anno, l'inaugurazione ufficiale è stata fatta l'8 marzo. E quindi era un bando comunale per uno spazio? Sì, il progetto è nato prima da un invito di Anita Sonego, che è consigliera pari opportunità, che un paio d'anni fa circa aveva fatto un invito alle donne di Milano a ritrovarsi in assemblee periodiche per provare a capire che cosa volevano le donne di Milano. E quindi poi c'è un percorso di un paio d'anni ha portato a questa apertura l'8 marzo. Esatto, dal tavolo spazi, poi ce n'erano altri, anche tipo il tavolo salute, il tavolo lavoro, comunque dal tavolo spazi è nato questo percorso che ha evidenziato la necessità e la voglia di uno spazio per le donne, e quindi è stato fatto poi questo bando di concorso che sul progetto della Casa delle Donne, l'associazione Casa delle Donne ha vinto, e quindi c'è stata poi l'assegnazione della casa a fine 2013. Senti, l'8 marzo c'è stata una festa? Come è stata aperta questa casa? Era stato preceduto da, ci sono stati due open day per cui la casa era già stata aperta. Comunque l'8 marzo c'è stata una giornata di eventi, erano tipo 40 in tutto, a ciclo continuo dalla mattina a notte in tutte le stanze della casa, e quindi contemporaneamente ci sono stati sia tanti eventi, diciamo, con delle ospiti illustri, c'è stata Ottavia Piccolo, Lella Costa, e anche tanti eventi molto diversi. C'erano le ragazze dell'Accademia di Brera, c'erano degli spettacoli live, c'erano un sacco di donne che facevano la guida, c'erano i gruppi di discussione, e sono passate credo 2.000-2.500 donne, persone, proprio donne ovviamente, in quella giornata, e da allora è aperta. Persone, perché è uno spazio aperto a tutte e a tutti o uno spazio separato? Te lo chiedo perché non lo so. Guarda, è una questione credo ancora non definitivamente risolta, nel senso che all'apertura era aperta a tutte e tutti, e è ancora aperta la discussione se fare, ora un'area deve ancora finire i lavori di ristrutturazione, quindi al momento diciamo aperta per 2/3, e la questione è ancora risolta, al momento è aperta a tutti. Quindi ci sono ancora discussioni all'interno, insomma, se ne discute nelle assemblee? Sì, diciamo che poi uomini io ne ho visti due o tre, forse all'inaugurazione un paio, gli open day, e in qualche evento magari ce n'è qualcuno, cioè non è frequentata da uomini al momento, però anche molto poco aperta perché stiamo ancora lavorando alla strutturazione delle attività, dell'apertura, quindi però questa è una ancora delle questioni, sì, che non sono ancora state definite come altre. E ci vuoi raccontare un po' come si pone, insomma, questa casa, cosa si propone di fare, quali sono le iniziative già aperte? Sì, io faccio parte del gruppo in comunicazione, nella casa ci sono 11 gruppi che stanno lavorando in questo momento, che si occupano di tematiche anche molto diverse, per cui alcune trasversali, tipo il gruppo gli spazi, che è l'architetto, tipo noi che chiaramente ci occupiamo di mettere fuori tutto quello che accade, i gruppi che lavorano più su aspetti contingenti come gruppo intercultura, gruppo benessere, quindi loro specificatamente stanno lavorando a dei calendari tematici, quindi il gruppo benessere, nella casa c'è anche una palestra, quindi chiaramente tutte le attività legate al corpo, allo stare insieme con e attraverso il corpo, così come chiaramente il gruppo intercultura stanno cercando di fare rete con tutte le realtà differenti che ci sono a Milano e riuscire a trovare il modo anche di far sì che questo spazio venga vissuto da tutte queste anime. Al momento le attività sono ancora abbastanza poche, nel senso che curiosamente la cosa più complessa è riuscire a trovare delle volontarie per aperture, per cui si trovano tantissime volontarie per tutto tranne che per aprire la casa, quindi stiamo ancora cercando di organizzare. Ci sono stati alcuni eventi tutti molto autonomi, per cui c'è stato, non lo so, il secondo incontro Donne Denaro, che dopo Bologna ha visto la seconda parte sulla discussione sui vari modi per finanziare i progetti delle donne. Settimana scorsa c'è stata la presentazione dell'ultimo libro di Giuliana Sgrena. Ci sono due dei gruppi che si ritrovano tutte le settimane, come appunto il gruppo Intercultura, per esempio, so che apre un pomeriggio a settimana e fanno contemporaneamente accoglienza e progettazione. C'è un gruppo di giardiniere, c'è un piccolo giardino, ma Milano è una specie di miracolo, quindi c'è la fila per il gruppo del gardening. Poi c'è un gruppo che si trova, che fa leggono i libri, stanno facendo una selezione per le presentazioni a venire, e poi soprattutto le assemblee, i dibattiti. Ora a breve credo che inizierà anche un gruppo di autocoscienza, che è stato organizzato dalle donne che erano del CCIP e CICIAP. E poi ci sono tutte le attività legate a workshop, attività manuali, laboratoriali, eccetera, che stanno ancora prendendo forma. È un calendario ancora molto giovane. Senti, ci vuoi raccontare anche dove si trova a Milano e ce la racconti, ce la descrivi anche un po', visto che noi non l'abbiamo vista? Certo, è andata bene, è un'ex scuola, sta in via Marsala, angolo di Milano, praticamente Moscova, quindi se, da una parte nel centro-centro, vicinissimo a Corso Como, però non è via interna, per cui è tranquilla, è una zona tranquilla, è fatta a V, diciamo, quindi sono due aree, come l'hanno fatte proprio una volta le vecchie scuole. Sotto c'è la palestra, sopra, piano di sopra, c'è la casa delle associazioni, e poi sono le due ali, sono fatte con la classica guardiola del bidello, per capirsi, e poi ci sono tipo quattro aule in un'ala e altre tre o quattro dall'altra. Nel mezzo c'è il giardino nel vertice di questa V, e sotto tutto il lato è occupato dalla palestra. Significa che voi non pagate l'affitto? Non solo per capire, perché questa è una questione un po'... Non lo pagheremo soltanto per i primi, credo, tre anni, e quindi c'è stato fatto nel bando di concorso, c'era previsto questo tempo per trovare il modo di autofinanziarsi e poi di far sì che la casa si mantenga da sé. Quindi la grande sfida è quella ora, soprattutto, oltre a delle aperture strutturate. Senti, partendo da te, insomma, da questi microfoni già ti conosciamo, sei un'attivista lesbica che ha scelto di impegnarsi, insomma, in questo progetto della Casa delle Donne di Milano. Quindi ti chiediamo, da una parte, perché tu hai scelto di impegnarti in questo progetto, e dall'altra la presenza, la visibilità del lesbismo, delle lesbiche in questa casa. Sì, io ci sono arrivata praticamente per caso, nel senso che ero andata per fare la tessera un giorno che c'era un incontro, e mentre facevo la tessera sentivo che discutevano di una parte del bando che andava consegnato a giorni, nello specifico la parte che si riferiva alla comunicazione. Quindi poi, quando sono andata a casa, mi erano venute in mente delle cose che secondo me andavano aggiunte, ho scritto, e quindi mi sono trovata ad ufficio nel gruppo comunicazione. E le prime volte ci sono andata perché avevo bisogno di una pausa dalle lesbiche, ogni tanto c'è questa necessità, e poi sono rimasta perché ho trovato, soprattutto noi ci si vede molto nei singoli gruppi, più raramente nei gruppi allargati, ho trovato una rilassatezza di lavoro e di stare, che era tanto tempo che non mi capitava. Credo la presenza lesbica credo che non sia un dettaglio, nel senso che nel progetto i tre punti delle prime righe del progetto erano che la casa doveva essere una casa per le donne di tutte le culture, di tutte le età e di tutti gli orientamenti sessuali, e questa cosa è sempre rimasta molto oltre alla traccia non violenta, diciamo, è sempre rimasta molto forte, molto chiara. Quindi il lesbismo, da una parte direi che non è nemmeno una questione, nel senso che non è particolarmente tematizzata, per come ne pensavo io di trovarla tematizzata, ma è sempre in termini problematici. Però c'è il progetto in sé nasce da una chiamata di Anita, che è una lesbica storica, e anche se poi in questo caso l'ha fatto in veste di consigliere per le opportunità, ma chiaramente è quello. Poi nel direttivo c'è da qualche mese Katia Cofredda, che anche lei è un'altra lesbica di lungo corso. Nel nostro gruppo siamo quasi la metà, più o meno direi, occhio. Qualcuna che viene da percorsi politici strettamente lesbici, altre meno, però insomma una buona misura. In altri credo meno perché hanno una media d'età più alta, vengono da altri percorsi, però insomma è sicuramente più rilevante questo aspetto di come me lo sarei immaginata io, ecco. Quando io non ho mai avuto esperienze di lavoro con le femministe non lesbiche, quindi mi aspettavo un senso di estraneità molto più forte, che invece non c'è per niente proprio. E, senti, invece la Casa delle Donne, appunto, che nasce adesso, come si pone rispetto agli altri gruppi di femministe e lesbiche in città? Cioè, si pone come un soggetto aperto, si chiede alle altre di entrare, ci si propone invece come un soggetto politico che ha una propria identità? Come ci si propone rispetto, appunto, in una città come Milano, dove i collettivi, le associazioni, le realtà sono molte? Guarda, la scelta che è stata fatta a monte quando è stata fatta l'associazione, perché al bando poteva partecipare solo un'associazione, è stato di fare un'associazione di singole. Le associazioni sul territorio hanno fatto, chi voleva, insomma, quasi tutte, una lettera di sostegno, ma non potevano iscriversi, per cui in realtà quasi tutte le associazioni di cui ho memoria io che conosco in qualche modo sono rappresentate, perché veniamo tutte, cioè sono poche le donne che sono arrivate lì senza venire da altri percorsi di gruppo di vario tipo, più o meno recenti. E, però appunto non c'è una presenza diretta, quindi nel futuro non so se questi spazi verranno utilizzati dai gruppi più o meno, però al momento è una... siccome il progetto nasce dall'idea di uno spazio, appunto c'è un'interlocuzione con alcune associazioni molto, con altre meno, anche in base a chi ha voluto o non ha voluto interagire, ma sempre da una parte appunto con l'interfaccia delle singole e dall'altra con questa idea di dialogo che quando si parlava di una casa ancora ai tavoli c'erano rappresentanti di varie associazioni, poi ovviamente il problema è più sentito da chi non ce l'aveva, ma è diventato poi insomma un lavoro di gruppo. Mentre per quanto riguarda posizionarsi come soggetto politico è il tema di queste settimane, nel senso che è passata l'urgenza di aprire, di riuscire da una casa, di riuscire a capire come fare. Adesso in generale come casa, in particolare noi come gruppo comunicazione, questo è un tema che ci stiamo ponendo molto ogni volta che io mi occupo in particolare dei social della casa. Ogni volta che c'è una notizia, ogni volta che c'è una questione su cui ci sarebbe da dire qualcosa, va tenuto presente da una parte che ci si esprime a nome di 1500 soci e dall'altra che non siamo più un'entità che non può prendere una posizione, non può dire una cosa, quindi è una questione di cui stiamo dibattendo proprio ora, forse la più calda. Beh, sembra che ci dovremmo risentire, perché le questioni calde su cui state dibattendo sono veramente fondanti, insomma, quella di porsi o meno come soggetto politico, quella di fare uno spazio separato o non separato, cioè sembra che sia proprio il momento, il crogiolo delle idee in questo momento, ecco. Assolutamente sì, non ho idea di come siano nate altre realtà di questo tipo. In questo caso credo che c'è stato da una parte un lungo percorso orientato a un obiettivo pratico, quindi prima l'associazione, poi il bando, poi la struttura, però curiosamente come di Milano ho consegnato a fare dei lavori alla casa, era consegnato addirittura, non dico fuori termine, ma addirittura in anticipo, quindi c'è stata la corsa di inaugurazione, quindi adesso queste questioni, una volta calmate le urgenze pratiche, sono state dibattute nel corso del tempo, ma non erano mai così, c'erano delle urgenze concrete per cui arrivavano sempre a finire in coda. Ora credo che sia il momento di tirare le file e vedere quali sono le risposte. Sì. Senti, ti faccio una domanda un po' spinosa, non me ne avere. No, nel senso che una Casa delle Donne che nasce appunto in una struttura pubblica del comune, che un giorno avrà il problema di autofinanziarsi, eccetera, ovviamente ti chiedo la tua opinione, non l'opinione ufficiale, insomma, della casa. Pensi che sarà complesso mantenere l'autonomia delle donne, delle femministe, delle lesbiche che stanno dentro rispetto a non so, ai partiti politici, alle istituzioni, questo viene sentito come problematico o meno la fiducia nella propria determinazione è forte? Come lo vedi questo problema? Guarda, ci sono due anime molto forti che hanno delle posizioni abbastanza differenti, per cui c'è tutta una parte più disposta a monte al dialogo con le istituzioni, che sono quelle che arrivano appunto da questo luogo, nasce da un dialogo che parte istituzionale dall'inizio, e quindi chiaramente che seguono questo filo e hanno fiducia sul fatto che rimarrà una sorta di equilibrio, per cui che ci consentirà da una parte l'autonomia e dall'altra interfacciarsi con le istituzioni. E poi c'è tutta una parte invece di tendenzialmente di donne più giovani, ma non solo più giovani, però che invece sentono più forte l'esigenza o la preoccupazione di perdere possibilità decisionali, anche di perdere possibilità proprio, che quindi vorrebbero lavorare in una direzione di autonomia quanto più alta e più urgente possibile, insomma. Quindi non lo so, dipende credo da chi avrà più tempo da spenderci, più energie e più forze. Nel senso che queste due anime hanno dall'altra parte, secondo me chiaramente sono più personali, ma c'è proprio la differenza, c'è il taglio alla grafica di senso di stili di vita, no? Per cui tutte noi più giovani siamo quasi tutte precarie, con dei ritmi di vita, tutte che lavoriamo online perché non abbiamo tempi di vita possibili per vederci più di tanto, eccetera. E poi c'è invece un altro mondo che viene da un'altra vita e che ha proprio altri ritmi, quindi non so se ho risposto. No, hai risposto. E comunque, insomma, ci sarà modo e tempo per risentirsi per questo progetto molto molto giovane, visto che sostanzialmente ha un mese. E leggo qui davanti a me casadonnemilano.it, che è il sito, insomma, su cui anche da queste latitudini si può accedere, insomma, a vedere questo nuovo progetto. E poi insomma verremo a vederla, questa Casa delle Donne di Milano, la prima iniziativa lesbica per quanto ci riguarda. Brave, vi aspettiamo e ve la facciamo sapere allora. E noi ti ringraziamo molto per la disponibilità e a presto. Grazie, ciao a tutte, ciao. Ciao.